Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Uno studio italiano si aggiudica il Wolf Award, il più importante premio internazionale alla ricerca nell'ambito delle cefalee, che viene conferito per la prima volta al gruppo italiano della Società Italiana di Neurologia da parte della Società Americana delle Cefalee. In linea con noi il professor Gioacchino Tedeschi, presidente della Società Italiana di Neurologia e ordinario di neurologia presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, che ha coordinato lo studio. Professore, buongiorno e complimenti. Buongiorno. Professore, siete stati premiati per aver scoperto i meccanismi alla base dell'allodinia, quella sensazione dolorosa che porta il paziente con attacco di emicrania ad avvertire dolore anche per stimoli innocui come pettinarsi, indossare gli occhiali, gli orecchini, la cravatta, toccarsi il volto o tenere i capelli legati. Quale contributo può dare questa scoperta allo studio dell'emicrania? Ma insomma, l'emicrania è un dolore però questo dolore non ha solo una componente di percezione del dolore, ha una componente anche emotiva, cognitiva, e questo studio permette di ulteriormente chiarire che l'emicrania non è dovuta ad una alterazione o una disfunzione di una singola area cerebrale, ma ad una disfunzione di una rete neuronale ben più complessa, che ha a che fare con circuiti che controllano le emozioni e i nostri fenomeni cognitivi, per cui c'è chi un dolore lo sente in un modo e chi lo stesso dolore lo sente in un altro modo. Gli allodinici sono persone in cui il dolore viene percepito in maniera anomala, per cui sensazioni, come diceva lei, non dolorose vengono avvertite come dolorose, e questo aiuta moltissimo a capire i meccanismi intrinseci del dolore, che forse vanno anche al di là del dolore emicranico, forse riguardano il dolore in generale. Professor Tedeschi, ma quali indicazioni può suggerire a chi soffre di allodinia, quella sensazione dolorosa di cui stiamo parlando e di cui voi avete studiato i meccanismi per i quali siete poi stati premiati? Allora, l'allodinia rappresenta uno dei primi segnali di cronicizzazione del dolore. Quindi il paziente che prima di diventare allodinico è stato emicranico episodico tende a diventare emicranico cronico, quindi è un paziente che deve fare molto attenzione ai fattori scatenanti, molto attenzione all'abuso dei farmaci e deve di sicuro rivolgersi a un centro per le cefalee che possa affrontare il problema diversamente di come si affronta il problema di un paziente che ha una normale cefalea o ha un'emicrania episodica una o due volte al mese, perché bisogna assolutamente cercare di evitare che vada incontro alla cronicizzazione del dolore. Allora, bene, per oggi è tutto, vi lascio con l'appuntamento per il nostro incontri a tu per tu. Oggi sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute incontriamo il dottor Farronato, con cui parliamo di come affrontare e risolvere i piccoli incidenti domestici. Un saluto e buona giornata da Nicoletta.